I calcoli che si erano fatti gli operai, come tanti fatti dai padroni, si basavano su false premesse. Contavano sui loro simili come se possedessero la forza calcolabile delle macchine, né di più né di meno. Nessuna tolleranza, invece, per le passioni umane, che avessero avuto la meglio sulla ragione, come nel caso di Boucher e dei ribelli, e con la convinzione che protestare per le offese subite avrebbe avuto su persone sconosciute e lontane lo stesso effetto che le offese, immaginarie o reali, avevano su di loro. Di conseguenza erano sorpresi e indignati con i poveri irlandesi che si erano fatti riportare per prendere i loro posti. Questa indignazione venne moderata fino a un certo punto dal disprezzo per la loro identità irlandese, dalla soddisfazione all'idea che avrebbero fatto grandi pasticci sul lavoro, sconcertando i nuovi padroni con la loro ignoranza e stupidità, su cui già si erano diffuse storie esagerate per tutta la città. Ma la stoccata più crudele era stata proprio quella di alcuni operai di Milton che si erano ribellati, disobbedendo agli ordini del sindacato di mantenere la pace a ogni costo, qualsiasi cosa fosse successa, e che avevano creato discordia nel sindacato, diffondendo il terrore che la legge gli si sarebbe schierata contro. «E quindi lo sciopero è finito?» disse Margaret. «Eh sì, signorina. Ci abbiamo messo una pietra sopra. Le dovranno spalancare le porte della fabbrica domani per far entrare tutti quelli che chiederanno lavoro, anche se vogliono solo dimostrare che non avevano niente a che fare con un provvedimento che, se avevamo i numeri giusti, poteva portare i salari a un livello in cui non sono mai stati in questi ultimi 10 anni. Un lavoro lo otterrete, vero? Chiese Margaret. Siete un operaio conosciuto voi, vero? Humper mi farà lavorare nella sua fabbrica il giorno che si taglierà la mano destra, né prima né dopo, disse Nicholas con rassegnazione. Margaret era silenziosa e triste. Riguardo ai salari, disse il signor Hale, non offendetevi, ma penso che abbiate fatto dei gravi errori. Mi piacerebbe leggervi delle considerazioni da un mio libro. Si alzò e andò verso la libreria. Oh, non c'è bisogno che vi disturbate, signore, disse Nicholas. Le cose scritte sui libri mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. Non posso farci nulla. Prima della rottura tra me e Humper, gli ispettori hanno detto che io incitavo gli operai a chiedere salari più alti. E io e Humper ci siamo incontrati una volta in cortile. Aveva un libro sottile in mano e mi ha detto: Higgins, si dice che sei uno di quei maledetti idioti che pensano che per avere salari più alti basta chiederlo, sì? E anche per mantenerli alti, dopo che con la forza li avete fatti aumentare. Ora voglio darti un'opportunità e provare a vedere se c'è un po' di buon senso in te. Ecco qua un libro scritto da un mio amico, e se lo leggi, capisci che i salari trovano il loro giusto livello, senza che né padroni né operai debbano averci a che fare. Sempre che gli operai non si taglino la gola mettendosi a scioperare, maledetti idioti che sono. Bene. Ora, signore, lo chiedo a voi, che siete un parroco e avete predicato e avete dovuto cercare di convincere la gente a pensare quello che secondo voi è giusto di pensare. Incominciavate definendoli stupidi e cose del genere? O invece gli dicevate delle parole gentili all'inizio per farli essere pronti ad ascoltare e a convincersi se potevano? E nelle vostre prediche vi fermavate di tanto in tanto per dire un po' a loro, un po' a voi stessi: ma siete così una massa di idioti che non serve a niente che io con la mia autorevole teoria cerchi di farvi capire qualcosa. Non ero dell'umore migliore, lo ammetto, per prendere quello che l'amico di Humper aveva da dire. Ero così infastidito per come me l'aveva chiesto, ma ho pensato: avanti, vediamo che cosa hanno da dirmi questi qua e vediamo tra loro e me chi è l'idiota. E così ho preso il libro e mi sono sforzato di capirci qualcosa, ma Dio vi benedica, parlava di lavoro e di capitale e di lavoro, che mi ci potevo addormentare. Non sono mai riuscito a mettermi bene in testa qual era uno e quale l'altro, e ne parlava come se erano virtù e vizi. E quello che volevo sapere io erano i diritti che avevano gli uomini, perché ricchi o poveri, sempre uomini sono. Ma malgrado tutto, disse il signor Hale, pur ammettendo completamente il modo offensivo, sconsiderato, non da cristiano con cui il signor Humper si è rivolto a voi nel raccomandarvi il libro del suo amico, se c'era scritto quello che lui vi ha detto, che i salari trovano il loro giusto livello e che lo sciopero più riuscito può soltanto forzarli ad aumentare per un periodo per poi precipitare ancora di più successivamente, proprio a causa di quello sciopero, il libro vi avrebbe detto il vero. Beh, signore, disse Higgins alquanto ostinato, forse sì e forse no. Ci sono due opinioni che possono risolvere la questione. Mettiamo pure che quella vera è 2 volte più forte. Non c'è verità per me se non posso capirla. Suppongo che c'è verità nei vostri libri di latino, sui vostri scaffali, ma sono parole senza senso e non vere per me, a meno che io non ne conosca il significato. Se voi, signore, o qualsiasi altro uomo intelligente e paziente viene da me e mi dice che mi insegnerà il significato delle parole e non mi prenderà a botte se sono un po' stupido o mi dimentico che una cosa dipende da un'altra, beh, col tempo potrò riuscire a capire che sono vere, o forse no. Non sarò tenuto a dire che finirò col pensare come pensano tutti, e non sono uno che pensa che la verità può essere forgiata in parole tutte nitide e chiare come gli uomini della fonderia ritagliano lastre di ferro. Non è che a tutti le spine del pesce vanno giù allo stesso modo. A uno gli si conficca da una parte, all'altro gli va di traverso. Per non parlare di come, quando vanno giù, potrebbero essere troppo dure per uno e tenere per l'altro. Quelli che si mettono a curare il mondo con la loro verità devono adattarsi in modo diverso alle menti che sono diverse ed essere anche un po' gentili nel modo di esprimerla. O i poveri idioti sono capaci di sputargliela in faccia, disgustati. Allora Humper prima mi dà un pugno sull'orecchio e poi mi lancia addosso la sua grossa pillola e dice che scommette che non mi farà bene. Sono talmente stupido, ma eccola qua. Oh, vorrei che qualcuno tra i padroni più disponibili e saggi incontrasse qualcuno di voi, lavoratori, e che vi faceste una bella chiacchierata su queste faccende. Sarebbe, ne sono certo, il modo migliore per superare le vostre difficoltà. E ne sono convinto, derivano dalla vostra ignoranza. Vi chiedo scusa, signor Higgins, su argomenti che nel reciproco interesse dei padroni e degli operai dovrebbero essere compresi da entrambi. Mi domando, un po' rivolto a sua figlia, non si potrebbe persuadere signor Thornton a fare una cosa del genere? Ti ricordi, vero papà? Disse a voce molto bassa, quello che ha detto un giorno sulle forme di governo. Non era disposta a fare nessuna allusione più chiara alla conversazione che avevano avuto sul modo di governare gli operai, o fornendo agli uomini informazioni sufficienti per governarsi da soli, oppure attraverso un saggio dispotismo da parte del padrone, perché notò che Higgins aveva accolto il nome del signor Thornton, se non l'intero discorso, e infatti si mise a parlare di lui. Thornton? È il tizio che non ha aspettato a scrivere per chiamare questi qua dall'Irlanda e che ha portato alla sommossa che ha rovinato lo sciopero. Persino Humper, con tutta la sua prepotenza, avrebbe aspettato un po'. Ma è detto fatto per Thornton. E adesso che il sindacato l'avrebbe ringraziato per la caccia a Boucher e a quei ragazzi che non hanno rispettato nessuno dei nostri ordini, è Thornton che se ne viene fuori con freddezza a dire che siccome lo sciopero è finito, lui come parte lesa non vuole denunciare i rivoltosi. Pensavo che ci aveva più fegato. Pensavo che l'avrebbe spuntata, che si sarebbe vendicato apertamente. Invece dice, uno che stava in tribunale mi ha detto le sue parole esatte, sappiamo bene chi sono. La naturale punizione per il loro comportamento sarà la difficoltà che incontreranno nel trovare un lavoro. Sarà già abbastanza severa quella. Magari che prendevano Boucher e lo portavano davanti a Hamper. La vedo la vecchia tigre che gli si scaglia contro. L'avrebbero lasciato andare? Non lui. Il signor Thornton aveva ragione, disse Margaret. Siete arrabbiato con Boucher, Nicholas, o altrimenti sareste il primo a vedere che se la punizione naturale è sufficiente per quel reato, ogni punizione ulteriore diventerebbe invece simile a una vendetta. Mia figlia non è una grande amica del signor Thornton, disse il signor Hale, sorridendo a Margaret, mentre lei, tutta rossa in viso, si mise a cucire con doppio impegno. Ma credo che quello che ha detto sia la verità. Lui mi piace per questo. Beh, signore, questo sciopero per me è stato un lavoro faticoso e non vi meraviglierete se sono un po' seccato di vedere che è fallito solo per colpa di pochi uomini che non volevano soffrire in silenzio e resistere, coraggiosi e fermi. Dimenticate, disse Margaret. Non so molto di Boucher, ma l'unica volta che l'ho visto non parlava delle sue sofferenze, ma di quelle della moglie malata e dei suoi bambini piccoli. È vero, ma anche lui non era fatto di ferro. Si sarebbe messo a piangere per i suoi dolori, dopo. Non era uno che ce la faceva a sopportare. Come è entrato nel sindacato? Chiese Margaret in modo innocente. Non sembrate avere molta stima di lui, né credere di ottenere nulla di buono dall'averlo con voi. Il volto di Higgins si incupì, rimase in silenzio per 1 o 2 minuti, poi disse in modo alquanto conciso: Non spetta a me parlare del sindacato, quello che fanno, fanno. Quelli che fanno lo stesso mestiere devono tenersi uniti e se non sono disposti a correre il rischio insieme a tutti gli altri, il sindacato ha i suoi modi e i suoi mezzi. Il signor Hale si accorse che Higgins era infastidito dalla piega che aveva preso la conversazione. E restava in silenzio. Margaret no, sebbene come il padre vedesse chiaramente l'emozione di Higgins, istintivamente sentì che se solo fossero riusciti a indurlo a esprimersi con parole semplici, avrebbero ricavato qualcosa di preciso su cui discutere a favore del diritto e della giustizia. E quali sarebbero questi metodi del sindacato? Alzò lo sguardo verso di lei, come se fosse sul punto di opporre un'accanita resistenza alla sua richiesta di informazioni. Ma la tranquillità di quel volto, che lo fissava paziente e fiducioso, lo costrinse a rispondere. Beh, se un lavoratore non fa parte del sindacato, quelli che lavorano ai telai accanto a lui hanno l'ordine di non rivolgergli la parola. Se è afflitto o malato è la stessa cosa. È isolato, non è uno dei nostri. Sta tra di noi, lavora tra di noi, ma non è dei nostri. In alcuni posti a chi parla con lui viene data una multa. Provateci, signorina. Provate a vivere un anno o due tra persone che si girano dall'altra parte se le guardate. Provate a lavorare con file di 2 metri di operai che, vedete, c'hanno dentro un rancore opprimente nei confronti vostri che, se gli dite che siete contento, non gli brilla neanche un occhio, né gli si muove neanche un labbro. E se ci avete un peso sul cuore, non gli potete dire niente perché non si accorgeranno mai dei vostri singhiozzi o della vostra faccia triste. E non è un altro uomo, quello che brontola ad alta voce contro quelli che gli chiedono soltanto qual è il problema. Solo provateci, signorina, 10 ore per 300 giorni e saprete un po' che cos'è il sindacato. Ma perché? Disse Margaret. Che tirannia è mai questa? No, Higgins, non me ne importa un bel niente della vostra rabbia. So che non potreste avercela con me nemmeno volendolo e io devo dirvi quel che è giusto. Che non ho mai letto in nessuno di tutti i libri di storia che ho studiato di una tortura più prolungata e più lenta di questa. E voi fate parte del sindacato e parlate dei padroni come se fossero dei tiranni? No, disse Higgins, potete dire quello che volete. Chi è morto sta tra voi e tutte le mie parole di rabbia. Pensate che mi sono dimenticato di chi è distesa là, di quanto bene vi voleva? E sono i padroni che ci hanno fatto commettere peccato, seppure il sindacato ci avesse le sue colpe. Forse non questa generazione, ma i loro padri, sì, i loro padri hanno ridotto i nostri padri in cenere, ridotto noi in polvere. Reverendo, credo di aver sentito mia madre che leggeva un testo: i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono legati. È così con loro. In quei giorni di dolorosa oppressione è nato il sindacato. Era una necessità. È una necessità anche adesso, secondo me. È un opporsi all'ingiustizia, passata, presente o futura. Può essere come una guerra. Insieme ci viene il crimine. Ma credo che era un crimine ben più grande non fare niente. La nostra unica possibilità è quella di mettere insieme gli operai per un interesse comune. E anche se alcuni sono codardi e altri stupidi, devono muoversi a unirsi alla grande marcia. Che ha la sua unica forza nel numero di persone. Oh, disse il signor Hale, sospirando, il vostro sindacato in sé sarebbe meraviglioso, magnifico, incarnerebbe la cristianità stessa, se avesse come unico fine il bene di tutti, e non meramente quello di mettere una classe contro l'altra. Beh, credo che per me sia venuto il momento di andare, signore, disse Higgins quando l'orologio batté le 10. A casa? Disse Margaret molto delicatamente. Lui la capì e prese la mano che lei gli offriva. A casa, signorina, potete fidarvi, anche se sono uno del sindacato. Mi fido di voi, ciecamente, Nicholas. Aspettate, esclamò il signor Hale andando di corsa verso la libreria. Signor Higgins, sono certo che vi unirete a noi nella preghiera della sera, vero? Higgins guardò Margaret, dubbioso, incontrò i suoi occhi seri e dolci. Non c'era in essi costrizione, soltanto un profondo interessamento. Non rispose, ma restò al suo posto. Margaret, l'anglicana, suo padre, il dissidente, Higgins, l'ateo, si inginocchiarono insieme. E non fece male. a nessuno di loro. 29. Un raggio di sole. Il mattino seguente portò a Margaret una lettera di Edith. Era affettuosa e incoerente come chi la scriveva, ma quell'affetto faceva una certa presa sul carattere affettuoso che la stessa Margaret aveva, e lei, con quella sua incoerenza, c'era cresciuta e quindi non la percepiva nemmeno. Diceva quanto segue. Oh, Margaret, vale la pena di fare un viaggio dall'Inghilterra per vedere il mio bambino. È un bimbetto splendido, soprattutto con le sue cuffiette e in modo particolare con quella che gli hai spedito tu, mia brava e instancabile signorina dalle dita d'oro. Avendo già fatto morire d'invidia tutte le madri qui, voglio farlo vedere a qualcuno che non l'ha mai visto e sentire tutta una nuova serie di espressioni di ammirazione. Forse è questa l'unica ragione. Forse no, no. Probabilmente c'è anche un po' di quell'affetto tra cugine. Ma vorrei così tanto che venissi qui, Margaret. Sono sicura che non ci sarebbe cosa migliore per la salute di zia Hale. Tutti qui sono giovani e sani, e il nostro cielo è sempre blu, e il nostro sole sempre splendente, e la banda suona magnificamente dalla mattina alla sera. E per riprendere il ritornello della mia canzonetta, il mio bambino è sempre sorridente. Continuo a desiderare che me lo disegni, Margaret. Non importa in quale atteggiamento, quella creatura è la più carina, la più graziosa, la migliore che si sia mai vista. Penso di volergli molto più bene che a mio marito, che sta diventando risoluto e scontroso, quello che lui definisce impegnato. No, non è vero, è appena rientrato con la novità di un picnic così delizioso organizzato dagli ufficiali della Hazard, ancorata nella baia qui sotto. Dal momento che ha portato a casa una notizia così piacevole, ritiro tutto quello che ho appena detto. Qualcuno non si era bruciato la mano per aver detto o fatto qualcosa di cui si era dispiaciuto? Beh, non posso bruciarmi la mia perché mi farebbe male e la cicatrice poi sarebbe orribile. Ritiro tutto quello che ho detto più velocemente possibile. Cosmo, il capitano Lennox, mio marito, è un vero tesoro, proprio come il bambino. Non è neanche un po' risoluto e per niente scontroso come nessun marito può essere, solo che a volte è molto, molto impegnato. Posso dire che senza l'amore e i doveri di una moglie, cosa stavo dicendo? Prima avevo una cosa molto importante da dirti, lo so. Ah, è questa, carissima Margaret, devi venire a trovarmi. Farebbe bene a zia Hale, come ho detto prima. Chiedi al dottore che glielo prescriva, digli che è il fumo di Milton a farle male. Non ho dubbi che sia quello. Davvero, 3 mesi. Non devi venire di meno, di questo clima delizioso, tutto il sole e l'uva che cresce dappertutto, come le more, la farebbero guarire completamente. Non chiedo a mio zio. In quel punto la lettera diventava più affettata e coerente. Il signor Hale era in castigo, come un bambino cattivo per aver rinunciato alla sua vita precedente. Perché, suppongo, disapprova la guerra e i soldati e le bande. Inoltre so che molti dissidenti sono membri dell'Associazione per la Pace e temo che non gli piacerebbe venire. Tuttavia, se lo volesse, cara, ti prego di dirgli che Cosmo e io faremo del nostro meglio per farlo sentire a suo agio. E nasconderei il mantello rosso e la spada di Cosmo e chiederei alla banda di suonare soltanto musiche serie e solenni di ogni genere. Oppure, se dovessero suonare melodie pompose e vane, il ritmo sarà 2 volte più lento. Oh, cara Margaret, se gli fa piacere accompagnare te e la zia Hale, cercheremo di farlo divertire, sebbene io abbia un po' timore di quelli che hanno fatto qualcosa per amore di coscienza. Tu non l'hai mai fatto, spero. Di' a zia Hale di non portare tanti vestiti pesanti, anche se temo che non riuscirete a venire prima della fine dell'anno. Ma non avete idea del caldo qui. Ho provato a indossare il mio meraviglioso scialle indiano a un picnic. Sono andata avanti a proverbi più che potevo. Chi bella vuole apparire un po' deve soffrire. E a salutare i pezzetti di albedo, lo strato bianco della buccia degli agrumi, ma non è servito a niente. Sembravo Scricciola, il cagnolino della mamma, con addosso gli ornamenti di un elefante, soffocata, nascosta, torturata dai miei stessi fronzoli. Così l'ho trasformato in un ottimo tappeto per far accomodare tutti. Ecco qui il mio giovanotto, Margaret. Se non fai subito le valigie appena ricevi questa lettera e non vieni dritta a trovarmi, penserò che tu discenda dal re Erode. Margaret Bramava anche solo un giorno della vita di Edith, la sua spensieratezza, la sua casa allegra, i suoi cieli assolati. Se un desiderio avesse potuto trasportarla, sarebbe partita solo per un giorno. Agognava quell'energia che un simile cambiamento poteva portare, condurre anche solo per poche ore quella vita radiosa e sentirsi di nuovo giovane. Non aveva ancora compiuto 20 anni e aveva dovuto sopportare una pressione così forte che la faceva sentire quasi vecchia. Questa fu la prima sensazione che provò dopo aver letto la lettera di Edith. Poi la rilesse e, dimenticandosi di se stessa, si dilettò all'idea della somiglianza della missiva con la personalità di Edith e stava ridendo allegramente proprio di questo quando la signora Hale entrò nel salotto tenendosi al braccio di Dixon. Margaret si precipitò a sistemare i cuscini. Sua madre sembrava più debole del solito. Per cosa ridevi, Margaret? Chiese non appena si fu ripresa dallo sforzo di sistemarsi sul divano. Oh, per una lettera di Edith che ho ricevuto stamattina. Te la leggo, mamma. La lesse ad alta voce e per un po' sembrò interessare sua madre, che continuava a chiedersi come Edith avesse chiamato suo figlio, suggerendo tutti i probabili nomi che potesse aver scelto e tutte le ragioni possibili per cui ciascuno di quei nomi potesse venir dato. Nel bel mezzo di questi quesiti entrò il signor Thornton, che portava in regalo alla signora Hale altra frutta. Non poteva, o per meglio dire, non voleva negarsi la possibilità del piacere di vedere Margaret. In questo non aveva altro scopo che la gratificazione del momento. Si trattava dell'ostinata testardaggine di un uomo solitamente equilibrato e ragionevole. Entrò nella stanza notando con un colpo d'occhio la presenza di Margaret e tuttavia, dopo il distaccato inchino iniziale, non sembrò più rivolgerle uno sguardo. Si limitò a stare in piedi, a presentare le sue pesche con parole gentili e cordiali e poi i suoi occhi, freddi e offesi, incontrarono quelli di Margaret con un formale saluto mentre usciva dalla stanza. Si sedette, pallida e silenziosa. «Sai, Margaret, sta proprio iniziando a piacermi, signor Thornton.» All'inizio non ci fu risposta, poi Margaret si sforzò a dire un freddo «Ah sì? Sì, penso che stia diventando davvero raffinato nei modi.» La voce di Margaret era ritornata più normale, rispose «È molto gentile e premuroso, non c'è dubbio.» «Mi sorprende che la signora Thornton non passi mai a farmi una visita, saprà che sono malata per via del letto ad acqua.» Beh, suppongo che venga a sapere della tua salute da suo figlio. Però mi piacerebbe vederla. Hai così pochi amici qui, Margaret? Margaret capì a cosa stava pensando sua madre. Covava il tenero desiderio di chiedere a una donna che avesse un occhio di riguardo per quella figlia che forse presto sarebbe rimasta orfana di madre, ma non riuscì a dire nulla. Pensi, disse la signora Hale dopo una pausa, di poter andare a chiedere alla signora Thornton di venire a trovarmi? Soltanto una visita, non voglio disturbare. Farò qualunque cosa desideri, mamma, ma se... Ma quando tornerà Frederick? Ah, sicuro, dobbiamo tenere le porte chiuse, non dobbiamo far entrare nessuno. Non so se sperare che venga o meno, a volte penso che preferirei non venisse. A volte faccio sogni orribili su di lui. Oh, mamma. Staremo attente, metterò la mano sul chiavistello prima che il più piccolo pericolo si avvicini. Conta su di me. Mi prenderò cura di lui, mamma. Veglierò su di lui come fa una leonessa col suo piccolo. Ma quando ci farà sapere qualcosa? Ci vorrà ancora una settimana, mamma, di sicuro, forse di più. Dobbiamo mandare via Marta per tempo. Non ce la faremo mai ad allontanarla se sarà qui al suo arrivo. Dixon è sicura che ce lo ricorderà. Stavo pensando che se abbiamo bisogno di un aiuto in casa mentre lui è qui, forse potremmo prendere Mary Higgins. È disoccupata ed è una brava ragazza e si impegnerebbe per fare del suo meglio, ne sono convinta. E dormirebbe a casa sua, non dovrebbe mai salire al piano di sopra, così non saprebbe chi c'è in casa. Come desideri, come desidera Dixon. Però, Margaret, non abituarti a usare quegli orribili termini di Milton. Disoccupata. È un provincialismo. Cosa dirà tua zia Shaw se ti sente parlare così quando torna? Oh, mamma, non cercare di fare di zia Shaw uno spauracchio. disse Margaret ridendo. Edith ha preso di tutto e di più dal gergo militare del capitano Lennox e zia Shaw non se n'è mai accorta. Ma il tuo è il gergo della fabbrica. Beh, se vivo in una città di fabbriche devo parlare la lingua della fabbrica quando mi va. Beh, mamma, potrai stupirti con una vasta quantità di parole che non hai mai sentito in vita tua. Non credo che tu sappia cos'è un crumiro. Io no, bambina mia. So solo che ha un suono molto volgare, non voglio sentirtelo usare. Molto bene, cara mamma, non lo farò. Dovrò sostituirlo con un'intera frase esplicativa. Non mi piace questa Milton, disse la signora Hale. Edith ha proprio ragione nel dire che è stato il fumo di questa città a farmi ammalare. Margaret sussultò nel sentirle dire questo. Suo padre era appena entrato nella stanza e lei era molto preoccupata che quella vaga ipotesi che l'aria di Milton avesse rovinato la salute della madre non si avvalorasse e non ricevesse nessuna conferma nella mente di lui. Non sapeva dire se il padre avesse sentito o meno le parole della madre, tuttavia si mise a parlare velocemente di altre cose senza accorgersi che il signor Thornton era dietro di lui. Mamma mi sta accusando di aver imparato tantissime parole volgari da quando siamo venuti a Milton. La volgarità, tra virgolette, di cui Margaret parlava era puramente riferita all'uso della lingua locale e alle espressioni che erano venute fuori dalla conversazione di poco prima, ma il volto del signor Thornton si incupì e Margaret improvvisamente percepì che avrebbe potuto fraintendere il suo discorso. Quindi, dolcemente, con il naturale desiderio di non voler causare sofferenza inutile, si sforzò di procedere con un piccolo saluto e di continuare il suo discorso rivolgendosi espressamente a lui. E dunque, signor Thornton, per quanto Crumiro non abbia un bel suono, non è espressivo? Potrei farne a meno parlando della cosa che rappresenta. Se usare parole locali e volgare, ero molto volgare quando ero nella New Forest, non è vero, mamma? Era insolito da parte di Margaret imporre un argomento di conversazione agli altri, ma in questo caso era così preoccupata di fare in modo che il signor Thornton non si sentisse infastidito dalle parole che aveva udito per caso, che fu soltanto dopo aver finito di parlare che si rese conto e diventò tutta rossa, soprattutto dal momento che Thornton non sembrò cogliere la vera sostanza o l'attinenza del suo discorso e la ignorò. Con un movimento cerimonioso, freddo e riservato, per parlare con la signora Hale. Vedendolo, la signora Hale si ricordò del desiderio di incontrare sua madre per raccomandare Margaret alle sue attenzioni. Margaret, seduta in un silenzio rovente, provando fastidio e vergogna per la difficoltà di stare al suo posto e di mantenere il suo cuore calmo e indifferente quando il signor Thornton le era vicino, udì la debole supplica di sua madre che chiedeva che la signora Thornton andasse a trovarla, presto, l'indomani, se fosse stato possibile. Il signor Thornton promise che ci sarebbe andata, conversò un po' e poi si congedò. In un attimo, i movimenti e la voce di Margaret sembrarono liberati da catene invisibili. Non l'aveva mai guardata, eppure il modo accurato con cui i suoi occhi la evitavano indicava che in qualche modo lui sapeva esattamente dove si sarebbero posati se fossero caduti occasionalmente su di lei. Se parlava non le prestava alcuna attenzione, ma allo stesso tempo modificava le parole che rivolgeva successivamente a qualcun altro in base a quello che lei aveva detto. A volte forniva una risposta immediata a qualche commento che aveva lei fatto, ma veniva data a qualcun altro come se non fosse stata lei a suggerirlo. Non si trattava di una maleducazione inconsapevole, era quella maleducazione intenzionale che deriva da una profonda offesa. Fu intenzionale quella volta. Se ne rammaricò in seguito, ma nessun piano dettagliato, nessuna astuzia prudente gli sarebbero potuti tornare così utili. Margaret pensava a lui più di quanto avesse mai fatto prima, non perché provasse anche solo un briciolo d'amore, ma per il rimpianto di averlo ferito così profondamente, e lottava con calma e pazienza per ritornare a quella precedente antagonistica amicizia, perché il ruolo di amico era quello che Margaret credeva che lui avesse rivestito nei suoi confronti, così come nei confronti della famiglia. C'era una sincera umiltà nel suo atteggiamento verso di lui, come se silenziosamente volesse scusarsi per le parole troppo dure che erano state una reazione ai fatti del giorno della sommossa. Tuttavia, Lui provava un amaro rancore per quelle parole. Gli risuonavano nella mente, provava un certo orgoglio per quel senso della giustizia che lo spingeva a offrire ai genitori tutte le attenzioni che poteva. Esultava per la forza che mostrava imponendosi di affrontarla tutte le volte che pensava a qualche gesto che potesse fare piacere al padre o alla madre. Pensava che non avrebbe visto volentieri qualcuno che lo aveva mortificato così profondamente, ma si sbagliava. Essere nella stessa stanza e sentire la sua presenza era un piacere pungente. Tuttavia lui non esaminava a fondo le sue ragioni personali e, come ho già detto, si sbagliava.